Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani dal disco degli X dal titolo Day. E come si chiamava questa canzone? Beh, questa canzone era Luce e Fumo e parlava un po' di come noi riusciamo a costruire la canzone, partendo dalla prima idea che arriva in sala fino al testo, che poi io dico sempre che quando la canzone è bella e la sentiamo, il testo poi viene praticamente di getto. Sì. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Beh, guarda, come diceva prima Stefano, c'è il video intanto, che non è poco, non è poco, anche perché noi non è che siamo un po' più espertissimi, quindi sarà bello vederci fare le prime riprese. Poi naturalmente la promozione, quindi altre interviste e concerti per tutta l'estate. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Beh, adesso c'è Viaggiando, che il pezzo di apertura del disco, e parla appunto di un viaggio. Il tempo come sempre vola e siamo quasi in chiusura di puntata. Voi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Un grazie agli ex per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Allora, guarda, per raccogliere tutte queste informazioni diamo il www.facebook.com/expastarock, che è il nostro indirizzo web, dove expastarock. E lì c'è tutto, email, concerti. Adesso concerti non abbiamo niente in programma perché stiamo uscendo proprio da un bel blocco di concerti e interviste, quindi stiamo preparando poi i prossimi live e fisseremo le date. E poi il disco si trova su tutte le piattaforme digitali, compresa iTunes, dove si può scaricare anche il libretto. Distribuzione Atomic Stuff, www.atomicstuff.com, e quindi copriamo il nord Italia come negozi e grazie per l'ospitalità. È vero, grazie. Grazie a voi. Grazie. Brano per chiudere in bellezza questa serata? 8, che è una canzone breve ma molto tosta e molto rock and roll. Gianluca e gli ex vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti Saint Lips, formazione alternative rock romana, che ci presenterà il disco Charm. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.